Buon pomeriggio a tutti, da Giulia Scalona per Radio Antenna Migrante. Oggi pomeriggio in versione video streaming, sembra molto attuale, trasmettendo dalla Campania, neo zona rossa questa modalità. In video c'è anche Chiara Peri. Buonasera Chiara. Ci sarà la restituzione finale di una ricerca che si chiama La salute psichica dei migranti forzati, il progetto PsyCare, credo che la pronuncia sia giusta. Ok, meno male. E Chiara, chiedo a te di presentarci nelle linee generali il progetto, che è molto complesso, ti chiedo di riassumerlo così anticipiamo la giornata di domani. Allora, questo progetto è un progetto finanziato da Open Society Foundation ed è un progetto di advocacy partecipata sul tema dell'accesso dei migranti forzati ai servizi di salute mentale, specialmente ai servizi pubblici di salute mentale. E è stato un percorso di 2 anni che ha visto la creazione di tavoli territoriali in 4 regioni italiane, in Lombardia, nel Lazio, in Campania appunto e in Sicilia. E il tentativo è stato proprio di creare delle reti in cui si potesse parlare e discutere tra gestori di enti di accoglienza, clinici del Servizio Sanitario Nazionale, operatori del terzo settore, tanto sul fronte della salute mentale che sul fronte dell'accompagnamento dei migranti forzati, su come possa essere un modo migliore di integrare meglio il servizio sociale e il servizio sanitario, che poi è un grande tema, diciamo, di diritto alla salute, della salute mentale in particolare, che chiaramente all'interno dei migranti forzati pone delle criticità ulteriori e particolari. Quindi lo scopo era di formulare insieme delle proposte di miglioramento che sono contenute in questo documento finale di linee di indirizzo per la presa in carica integrata della salute mentale dei migranti forzati e abbiamo fatto precedere questi documenti da alcuni articoli di diversi specialisti su diversi aspetti pertinenti a questo tema. Domani, in un grande confronto finale, diciamo, abbiamo chiesto certamente a un rappresentante di ciascun territorio, ma poi anche a stakeholder rilevanti sulla livello nazionale, cioè il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, l'INMP, l'Istituto Nazionale della Medicina della Povertà, che è un po' il braccio operativo del Ministero della Salute per i temi della salute della popolazione a rischio di marginalità, di fare un confronto su dove ci ha portato questo percorso e dove potremmo continuare. In particolare, questo evento è stato, diciamo, in qualche modo facilitato anche dall'onorevole Pietro Bartolo, che ne ha visto un europarlamentare molto impegnato. Lui, insomma, parla da solo la sua storia, diciamo, e che lui ha molto insistito perché facessimo questo evento. Avrebbe dovuto svolgersi al Parlamento europeo, diciamo, ospitato da lui, ma per portare anche a livello europeo questa riflessione, perché l'Italia, nel bene e nel male, però è comunque un paese che ha maturato un'esperienza straordinaria sia dal punto di vista della salute mentale sia dal punto di vista dell'accoglienza dei migranti forzati. Quindi veramente, diciamo, con tutte le criticità che contraddistinguono il nostro paese, però abbiamo anche qualcosa da dire a una platea internazionale su questo. La ricerca da quanto tempo è durata? 2 anni, Due da anni. settembre Da se 2018 a settembre 2020, e è quindi in questo modo, andato appunto, da nord a sud, la Lombardia, la Campania, il Lazio e una regione particolare come la Sicilia, che chiaramente è la prima porta d'Europa. La domanda, credo, quindi il tema sarà quello che a terra possiamo garantire ai migranti forzati che vivono in questa particolare condizione, a volte oltre che per il viaggio, anche per le condizioni di accoglienza di alcune strutture. assolutamente. Certo, parliamo di persone che hanno vissuto molto traumatici per definizione, però anche di persone che sono coinvolte a volte in processi di esclusione e di marginalizzazione e che quindi rimangono un po' ai margini. Il percorso d'accoglienza non riesce veramente a rendersi pienamente conto di tutti i loro anche bisogni di salute e quindi questo poi finisce per pregiudicare anche una sorta di spirale di esclusione per giudicare per sempre un percorso percorso di integrazione e di inclusione sociale. Quindi noi abbiamo svolto questo progetto in un momento molto critico per l'accoglienza, chiaramente, perché è andato a coincidere anche con l'applicazione dei decreti di sicurezza e quindi anche con un venir meno di molti servizi nella prima accoglienza nei CAS, a partire dalla presenza dello psicologo nelle TIP, e anche con un momento di grande espulsione di persone dal sistema, di grande diniego della commissione territoriale, esclusione nei sistemi di accoglienza con l'esclusione della protezione umanitaria. Quindi diciamo siamo proprio andati a capitare in un momento, uno dei molti momenti di radicale trasformazione del nostro sistema paese, che ora diciamo per fortuna sta avendo in qualche misura una ripresa in termini migliorativi, sperabilmente, però ecco, tutto questo tiene molto caldo e vivace anche il dibattito sulle prospettive, su come, quali possono essere i punti di criticità, i punti di... Certo, molto caldo anche perché è di pochi giorni fa la notizia del naufragio che ha visto vittima Joseph, il bambino di 6 mesi, non è purtroppo l'unico. Dall'inizio dell'anno le morti sono tantissime, c'è un inasprimento sulla rotta balcanica e chiaramente tutto quello che sta succedendo in Grecia nei campi profughi ci danno una realtà molto complessa del viaggio per l'arrivo in Italia. Sappiamo che l'IPRS è attivo anche con l'assistenza su altri progetti in provincia di Salerno e Avellino, con il progetto Pending che sta offrendo anche assistenza psicologica ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale. Quindi diciamo che probabilmente questo tema del coronavirus sta spingendo forse ad avere un'attenzione diversa sulla salute di tutti, e speriamo che questo sia un primo passo importante. Io ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro, perché sento che siete indaffaratissimi il giorno prima. Metteremo i link per iscriversi. Cioè, è un, come dicevi anche tu, un evento internazionale, c'è la possibilità anche di avere una traduzione simultanea in inglese, quindi metteremo i link per partecipare. Ci vediamo domani con lo streaming, ci sentiamo domani con lo streaming dell'evento. Buon lavoro a tutti, grazie per la disponibilità. È tutto, a domani con lo streaming audio dell'evento, che poi manderemo in diretta e poi riusciremo a lavorare in blocchi singoli in modo tale da poter riascoltare i singoli interventi, che sono veramente tanti. Vedrete poi nel programma il dettaglio. A domani e a presto, buona zona rossa.